Gesù non ha detto: chi ha l'abitudine di leggere la Bibbia costantemente e regolarmente, dopo qualche tempo, inizia a ricordare senza fatica dei versetti e dopo qualche anno è in grado di ricordare anche brani interi della Scrittura. In genere questo lo rende sicuro nel citare la parola di Cristo e di aver compreso rettamente il volere di Dio, ma purtroppo a causa dei nostri limiti a volte si dicono cose che non corrispondono alla verità. Proprio perché ricorre questo errore di mala interpretazione, cito alcuni esempi, nei quali si attribuiscono a Gesù ordini da lui non emanati né espressi. Questo approccio alla scrittura non proviene da un pignolo tedioso, ma da chi ha sempre ostinatamente cercato di comprendere il vero senso delle parole di Cristo. Uno degli obiettivi delle religioni è avere un messaggio di proselitismo. E anche i cristiani non si discostano da questo obiettivo, quindi nei loro innumerevoli messaggi dicono che Gesù ha ordinato di fare dei suoi discepoli. Questo spiega perché molti predicatori invitano gli ascoltatori e i credenti in Dio a essere pescatori di uomini. Ma Gesù non ha detto che dobbiamo invitare le persone ad essere pescanti cotestamento o RI di uomini. Ecco la circostanza e le parole di Gesù che si riferiscono a questo presunto ordine. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori, e disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Matteo 4, 18-20. Gesù aveva già avuto occasione di conoscere Pietro e suo fratello Andrea, ma, come cita il Vangelo di Marco, dopo che Giovanni il Battista fu messo in prigione, prese la decisione di istruire maggiormente coloro che avrebbe poi scelto come apostoli, Luca 6 e 13, così li chiamò a seguirlo. Solo dopo dichiarò che li avrebbe fatti pescatori di uomini. Una precisazione non da poco, perché tutte le religioni missionarie invitano o costringono le persone a essere missionari per fare degli adepti. Gesù stesso sentenziò i suoi contemporanei: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete il mare e la terra per fare un proselito e quando lo è diventato ne fate un figlio della Geenna, il doppio di voi. Matteo 23 e 15. Dopo questa sentenza, occorre fare molta attenzione alle ragioni che ci spingono a parlare di Cristo. Vi sono movimenti evangelici caratterizzati da uno spirito missionario molto forte, in grado in poco tempo di formare chiese a loro immagine e somiglianza, il che certamente non è da disdegnare, ma mi domando se il loro vero obiettivo è di portare anime a Gesù oppure alla loro organizzazione. La differenza è talmente minima da rendere quasi impossibile notarla. Il volere di Gesù è che le anime lo seguano, e chi segue Gesù, come lui stesso disse a Nicodemo, non può essere legato e condizionato da schemi e da movimenti religiosi. Questo non vuol giustificare l'aberrante individualismo anarchico, ma semplicemente incoraggiare a vivere per Gesù. E molto comune il messaggio relativo a un Dio che ci ama, che è il Salvatore del mondo, che è Gesù. È l'amico di tutti, specialmente dei poveri e bisognosi. Affermazioni che contengono del vero, ma Gesù non ha detto di essere l'amico di tutti. La circostanza nella quale ha parlato della sua amicizia si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Giovanni 15, 12-15. In questo discorso Gesù parla di tre diversi fondamentali aspetti dell'amicizia. L'amico è colui che si presta fino al sacrificio estremo per gli altri e al quale confidiamo ciò che non riveliamo a tutti. In merito al terzo aspetto dell'amicizia, Gesù impone una condizione, l'ubbidienza ai suoi comandamenti. Sembra un presupposto molto strano, ma ha la sua ragione d'essere. Molte persone dicono di gradire i discorsi di Gesù perché parla d'amore per il prossimo, perché invita le persone a vivere in pace, perché ci propone di aiutare chi ha bisogno, ma non vanno al di là di questa simpatia. Poiché i comandamenti di Cristo in genere sono anacronistici e urtanti per i formalisti religiosi, è molto meglio per la maggioranza delle persone non prenderli troppo sul serio. Si ubbidisce a ciò che è moralmente compatibile al nostro modo di pensare, ma non si accettano ordini che stravolgano la nostra vita. Così, per paura o orgoglio, non ci si schiera dalla parte di Gesù, proprio come i contemporanei di Gesù, che amavano più la gloria degli uomini di quella di Dio. Giovanni mezzogiorno e 43. È possibile definirli credenti, è possibile ritenerli parte della famiglia di Dio, ma Gesù non li ritiene suoi amici. Forse si dirà che non è poi una così grande perdita perché comunque si è degni della beatitudine eterna. Ma una vita cristiana considerata tale è una misera vita cristiana. L'Apostolo Paolo parla di una sapienza nascosta agli occhi degli increduli, 1 Corinzi 2, 7 a 9, ma vi è pure una sapienza nascosta agli occhi di tanti figli di Dio, poiché la vita cristiana non è filosofia. Non è fatta di parole vuote. Isaia 59, 4. Praticare ciò che Gesù ha detto significa comprendere la verità e diventare amici di Gesù. Amici di Gesù non si nasce ma si diventa, praticando tutta la sua volontà, senza deviare né a destra né a sinistra. Deuteronomio 5:32. Per chi si accontenta di essere semplicemente un credente, le parole di avvertimento di Gesù sono più che opportune. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Matteo 7, 21-23. Le parole di Gesù non sono pura dialettica, ma semplice realtà. Gli insegnamenti di Gesù sono universalmente conosciuti e costituiscono la base morale di tutti i popoli. Come ebbe a dire un grande apologeta del cristianesimo, vi sono molte persone nel mondo moderno che offrono, così dicono, nuove morali. Ma non vi può essere un motivo morale per accettare una nuova etica, a meno che quel motivo non sia preso in prestito dalla moralità tradizionale, che non è né cristiana, né pagana, né orientale, né occidentale, ma universale. In effetti, quella morale universale citata anche dallo scrittore apologeta cristiano Lewis è stata dichiarata da Cristo, il Dio vivente e vero, quasi 4.000 anni fa, quando disse «Questo comandamento che oggi ti prescrivo non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te». Non è in cielo, perché tu dica chi salirà per noi in cielo per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica. Non è di là dal mare, perché tu dica chi passerà per noi di là dal mare per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica. Ma la parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Deuteronomio 30, 11-14. Per questo profondo senso morale, si esortano gli uomini a comportarsi bene, a compiere opere umanitarie, arrivando alla conclusione che bisogna portare frutto nell'opera di Dio. Una verità questa da essere proclamata con forza, ma Gesù non ha detto che dobbiamo portare frutto. Queste sono le sue parole. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Giovanni 15, 1. Gesù presenta la vita cristiana come un'esistenza abbondante di opere, di iniziative gloriose, di imprese coraggiose, ma tutto questo è semplicemente il risultantico testamento o di una vita dimorante in Cristo, il che vuol dire una vita vissuta secondo i suoi comandamenti, Ancora una volta, dobbiamo avere il coraggio di uscire da una visione antropocentrica, dove tutto è giusto secondo il nostro punto di vista, per abbracciare una visione cristocentrica dove è solo Cristo a definire ciò che è giusto e bene. Un giusto e bene, al quale devo aderire, altrimenti mostro di essere di parere contrario. Così predicare un messaggio filantropo può avere un suo aspetto buono, anche perché se tutti ci comportiamo bene, ne abbiamo un vantaggio sociale, ma contiene il pericolo di giustificare o assopire le coscienze nei confronti di Dio. Io ho aiutato i poveri, non faccio nulla di male, osservo i miei doveri religiosi, cosa devo fare ancora davanti a Dio? La risposta cristiana non considera tanto ciò che si deve fare quanto quello che si deve essere. Se compio la volontà di Dio perché ubbidisco a Cristo, il risultantico testamento sarà che porto molto frutto, un frutto che Gesù definisce duraturo, perché, anche se non ne vedo gli effetti ora, in cielo è tutto registrato per l'eternità. Quindi, nella vita cristiana non si tratta di essere sanguigni e compiere tante opere, ma di mettere risolutamente in pratica tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Giosuè 23:6, secondo il punto di vista di Cristo, con zelo e perseveranza e i frutti per glorificare il Padre di Cristo ci saranno. Anche questo fa parte della fede. Bisogna riconoscerlo. Gesù è unico. Come è stato detto, Gesù di Nazareth, senza soldi e senza armi, ha conquistato milioni di persone più di quanto non fecero Alessandro, Cesare, Maometto e Napoleone. Senza scienza né cultura ha sparso più luce sulle cose umane e divine di tutti i filosofi e di tutti gli studiosi messi insieme. Senza avere l'eloquenza delle scuole ha pronunciato parole di vita, come mai sono state dette prima e dopo di lui, producendo effetti che vanno al di là della portata di un oratore o di un poeta. Senza aver mai scritto una sola parola ha messo in moto una schiera di penne ed ha fornito il tema per una infinità di sermoni, orazioni, discussioni, opere d'arte, libri di cultura e dolci inni di lode, più di quanto non abbia mai potuto fare l'intero esercito dei grandi uomini del passato e del presente. Nato in una stalla, crocifisso come un malvivente, egli dirige ora i destini del mondo e governa un impero spirituale che abbraccia la maggior parte degli abitanti della terra. Perciò desiderare di essere suoi discepoli è molto normale, e proprio per questo molti si dichiarano suoi discepoli. Ma chi sono i veri discepoli di Gesù? Anche Giuda l'Iscariota, quello che lo tradì, faceva parte dei discepoli di Cristo. Gesù non ha detto che i suoi discepoli siano quelli che si dichiarano tali, ma coloro che portano molto frutto per la gloria del Padre. Giovanni 15:8. Coloro che osservano la sua parola, Giovanni 8:31, e coloro che si amano, Giovanni 15:35. Non possiamo ignorare queste condizioni di Gesù se vogliamo essere suoi discepoli, soprattutto quella dell'amore. Poiché la parola amore per Dio non è una parola vuota, fine a se stessa, ma un modo di agire, dobbiamo chiederci con quale tipo di cammino i cosiddetti cristiani dimostrano il loro amore. E, forse amore, quando essi si giudicano a vicenda per colpire o ferire. Dopo lunga riflessione, sono giunto alla conclusione che, spesso, non è per cattiveria, ma semplicemente per ignoranza, cioè quella conoscenza non adatta. Si pensa che l'amore sia andare sempre sulla stessa direzione e nello stesso modo. Ma come mancò l'apostolo dell'amore, cioè Giovanni, che giudicò altri perché non seguivano Gesù in un modo simile al suo, così, dopo 2000 anni, l'errore si ripete. È vero che esistono fin troppe denominazioni, ma è altresì vero che solo nella libertà di espressione religiosa si può esprimere se stessi. E poiché siamo tutti diversi sia come cultura sia come carattere, il vero amore che proviene da Cristo non condanna nessun altro credente. E solo così si è discepoli di Cristo. Una verità questa, che verrà angosciosamente messa in evidenza prima del ritorno di Cristo, quando molti credenti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Matteo 10:30. Conclusione. E bene leggere le parole di Cristo per capirle nel modo e nel senso esatti per cui sono state pronunciate. Perché se leggiamo i presupposti che abbiamo nella mente anziché ciò che è scritto, inganniamo solo noi stessi, senza nessun interesse. 2012 1117 Ellero